Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ha vinto il buon senso, perché è assolutamente di buon senso dare più diritto ai soggetti anche dello stesso sesso che compongono una coppia, una unione. Al tempo stesso l'istituto giuridico del matrimonio è ben distinto da quello dell'unione ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Mantengo rispetto per le istituzioni, ma una rivoluzione contro natura e antropologica sarebbe avvenuta se fosse passata, diciamo, la legge sulle unioni civili, come era comunque nella prima versione, senza la stepchild adoption e senza l'obbligo di fedeltà. Questa è una domanda che non mi pongo, ma mi pongo però altre domande. Primo, abbiamo impedito che persone che non possono per natura avere figli abbiano dei figli. Non credo che la legge prevedesse il parto diretto da parte della persona impedita ad avere figli, che per realtà è il maschio. Non immagino che questa legge prevedesse che un maschio potesse partorire. Probabilmente prevedeva che due persone dello stesso genere potessero adottare un figlio. Ma se la natura prevede che una persona sia sterile, quindi non può avere figli, può adottarlo, sì, o se no, altrimenti, per estensione, bisognerebbe dire chi è sterile è condannato dalla natura, mai dovrà avere un figlio, nemmeno in adozione. Questa è la prima parte. La seconda parte è la più succosa, la fedeltà. Questa legge, praticamente, la massimalizzo, dice tanto gli omosessuali sono persone sregolate da una condotta irregolare e quindi hanno amori fugaci, promiscui e continui, quindi leviamogli la fedeltà, che tanto non la rispetteranno mai, e lasciamo la fedeltà come suggello sacro dell'unione matrimoniale, perché naturalmente, come tutti sappiamo, tutte le persone sposate sono fedeli, se no non si sposano, naturalmente, e quindi gli altri continuano ad avere libero amore. Devo dire che onestamente converrebbe tutti dichiararsi a questo punto omosessuali e dire ci sposiamo con la nuova legge, con quella che non prevede l'obbligo di fedeltà, così sì, ci vogliamo bene, stiamo assieme, ma sappiamo che questo doloroso e faticoso fardello in realtà sarà meno gravoso per tutti e due, perché se anche lo violi naturalmente non incorri nei rigori della legge. E ultima estensione, così do degli argomenti agli ascoltatori, quindi significa che la fedeltà è contro natura, quindi logicamente è qualcosa che è considerato come contro natura e quindi è stato tolto. Vi sono state tolte tutte le cose contro natura, è contro natura che due persone stiano assieme e siano fedeli. 800240024, che ne pensate? È roba fresca di pochi minuti fa. Melog, Cronache meridiane. Il governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento al DDL delle unioni civili. Dopo una lunga trattativa si è trovato un accordo. Il governo ha accolto le richieste dell'ala cattolica e i centristi di Alfano hanno ottenuto lo stralcio delle adozioni e l'esclusione dell'obbligo di fedeltà nella coppia di fatto. La minoranza del PD in cambio ha preteso che il provvedimento non condizionasse su questo argomento le future scelte della magistratura. All'attacco le opposizioni, che considerano inaccettabile e incostituzionale il maxi emendamento del governo e la decisione di Renzi di porre la fiducia su un DDL di iniziativa parlamentare che riguarda un tema etico. Questa sera il voto, il cui esito favorevole dovrebbe essere assicurato dalla maggioranza di governo e probabilmente anche dal gruppo ALA di Verdini. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Gianetto Regassani, lo sapete, presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore del libro Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia, edizione imprimatur, libro che presuppongo che sarà già la seconda, terza edizione. Dovrà immediatamente aggiungere un capitolo a questo libro, Gianetto, non può essere senza il capitolo sul la fedeltà secondo natura, mi sembra un tema importante e succoso. Vediamo innanzitutto se ci spieghi che è successo, perché è un gran caos, mi sembra aver capito che si è stabilito che la fedeltà è qualcosa che riguarda soltanto le persone che seguono la natura, chi ha rapporti contro natura non è obbligato a essere fedele, quindi da oggi io dirò voglio solo rapporti contro natura. Ma nel mio libro Vi dichiaro divorziati auspico il varo di una legge in tal senso, tuttavia negli ultimi giorni è successo di tutto di più. Per cui è stata stralciata la questione dell'obbligo della fedeltà e soprattutto la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio o del compagno. Si tratta di due passaggi di fondamentale importanza che dimostrano anche uno stato confusionale, a mio parere, della politica italiana, perché si cerca di portare stare avanti. Un diciamo la verità, è un ripiego parrocchiale, perché erano le uniche due cose che davano l'idea che fosse un'unione a tutti gli effetti. Ma infatti, in effetti le unioni civili, attenzione, lo dico ai radioascoltatori, riguardano solo le persone dello stesso sesso, non hanno niente a che vedere con le convivenze, che possono anche riguardare persone dello stesso sesso, ma che riguardano nella maggioranza dei casi le coppie eterosessuali. Cioè le unioni civili sono dei matrimoni a tutti gli effetti, hanno le caratteristiche classiche del vincolo matrimoniale, che può essere assolutamente condivisibile, ma io ritengo che le cose vadano chiamate col loro nome. Invece, avendo sostituito il nome matrimonio in unioni civili, abbiamo addolcito la pillola. Ma in effetti, se andiamo a guardarci il testo della legge, si parla di unione civile con due testimoni, c'è l'obbligo della coabitazione, del concorso nelle spese, addirittura la possibilità di avere un solo cognome per entrambi, tutte le questioni che riguardano le successioni, addirittura si applica per analogia la legge sul divorzio in caso di cessazione di questi rapporti, quindi si tratta di matrimoni. Ovviamente non avendo mai previsto l'obbligo della pubblicazione delle unioni civili e avendo stralciato l'obbligo della fedeltà, la politica italiana pensa che tutto sommato queste due questioni in qualche modo differenzino in maniera sostanziale le unioni civili dai matrimoni. Scusa, ma da un punto di vista giuridico, mi pare che così non è. Da un punto di vista giuridico, scusa Giannetti, faccio una domanda precisa. Non cambia assolutamente una mazza, è sempre comunque un matrimonio. Togliere la fedeltà, che è un principio impalpabile e indescrivibile, tu vuoi certificare il rispetto della fedeltà quando sei in una causa di divorzio e uno ti porta le foto della moglie con l'idraulico, del marito con la segretaria, sennò fino a quel momento tu puoi mai giudicare se sono in cuore mio fedele, in animo mio fedele, se ho consumato atti di infedeltà, se non è la prova certa e provata. Infatti questa cosa dello stralcio dell'obbligo della fedeltà francamente non la capisco, non la capirò mai, cioè non ho capito dove vogliono arrivare. Beh, è l'ennesima ipocrisia, per dire, Dio ti guarda e sa la tua coscienza. Io posso essere castissimo, essere infedele un istante della mia vita, come posso essere comunque fedele a un patto d'amore e lasciarmi andare a tutti i deliri carnali che voglio. Assolutamente. Beh, voglio dire, io comunque sono soddisfatto, perché comunque uno straccio di legge ci sarà anche nel nostro paese, siamo rimasti praticamente gli unici ancora fermi. Tuttavia però il teatrino della politica non piace a nessuno, insomma abbiamo giocato sui temi, sui nomi, sulla stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del partner, ma già esiste l'articolo 44 della legge 184, di fatto lo prevede e lo consente, tanto è vero che ci sono stati già dei precedenti più istituzionali in tal senso, cioè, ci sono stati dei giurisprudenziali che lo sono. Quindi, ma Roma, la coppia lesbica ha adottato un figlio naturale di una delle due, l'altra si è accollata anche alla maternità giuridica. Ma già è previsto, cioè in effetti anche il Tribunale per i minori di Roma ha accolto l'istanza di due donne compagne di vita, una delle due aveva una figlia avuta da una relazione precedente, siccome hanno dimostrato che tutte e due ormai fungevano da mamma, il giudice minorile giustamente ha accolto questa istanza di adozione, stabilendo che tra l'altro si trattava di una tutela di carattere economico e patrimoniale per la bambina. Già esiste, siccome probabilmente la collega Cirinà ha messo in mezzo la stepchild adoption in questa fase storica dell'Italia, e là è successa la fine del mondo. Bastava non metterla all'inizio, si parlava di molto chiaramente che le unioni civili sono in effetti un matrimonio a tutti gli effetti, che scusa il gioco di parole, basta. E se secondo me sarebbe approvata la legge in 4 e 48, si sarà fatta una grande confusione. Adesso c'è un grande compromesso tra le varie componenti della politica italiana. Sono convinto che questa legge ci sarà, che ormai non credo ci siano più sì, adesso dubbi. Già fatto. Tuttavia, tutti contenti. Siamo molto amareggiati per come si è arrivati a questa legge. Ma fermo un attimo, Giannetto. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Oggi discutiamo più che un aspetto giuridico. Ci ha perfettamente aggredito l'avvocato Gassani. Comunque un matrimonio, non prendiamoci in giro, a tutti gli effetti è un matrimonio. Avete depotenziato di quelli che pensate siano gli elementi più attinenti alla sfera spirituale, comportamentale. Avete detto i figli no, perché la natura non permette di averli, quando poi naturalmente li potranno comunque adottare, perché c'è una legge che permette comunque di adottare figli a chiunque, se anche un uomo che può adottare un figlio, anche se è single o anche se vive con un altro uomo, c'è già la legge, l'abbiamo detto. Articolo 44, legge 184. Ecco, perfetto, già si può fare, quindi se volete proprio essere contenti tutti, che tutte le beghine vadano a mettere i fiori davanti alla statua di Padre Pio che ha fatto la grazia, diremo sono talmente dissoluti che pensate nemmeno hanno l'obbligo di essere fedeli, che noi tutte e noi tutti abbiamo naturalmente osservato dal primo giorno in cui ci siamo sposati. Clark, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, l'ascolto. Sì, devo essere sincero, quando si parla di diritto naturale, di andare contro natura, penso che la nostra civiltà, essendo arrivata a un grado evolutivo tramite la legge, tramite l'evoluzione culturale e sociale, con questo atto sia passata, abbia fatto tre passi indietro. Se noi guardassimo all'aspetto naturale dell'uomo, saremmo barbari che ancora oggi ci ammazzeremo con le clave. Si va dal punto però, Clark, non ci faccia la storia dell'antropologia, voglio capire lei cosa vuol dire esattamente. Siamo dei barbari perché? Siamo dei barbari perché noi pensiamo ancora oggi alla natura come un carattere di uomo-donna, come se due uomini non potessero tenere un figlio. Come sì, vabbè, questo mi perdoni, non per dire, fa parte di un discorso precedente. Il secondo natura è diverso, esiste una legge fissa che oggi viene millantata per legge natura, la natura si sovrascrive continuamente, non esiste una legge natura innega. Il rapporto fra uomo e donna, secondo natura, l'ho detto mille volte, si chiama coitus citus, la donna scappa e corre, l'uomo gli corre dietro, gli salta addosso, dura 20 secondi l'atto fecondativo, l'uomo se ne ritorna a combattere e a difendere la sua proprietà dagli altri uomini o ammazzare animali, la donna si nasconde in una caverna e fa i figli, quella è la natura, tutto il resto è cultura, quindi possiamo reinventarcelo continuamente. Diego, buongiorno. Buongiorno, io mi volevo soffermare sull'aspetto della fedeltà. È normale regolamentare per legge la fedeltà in un rapporto, in un rapporto di coppia, di qualunque sesso si tratti, eh? Gianetto Legassani, nel matrimonio è fondamentale perché c'è un rapporto anche in cui ci sono degli obblighi patrimoniali, io penso che presupponga, al di là dell'aspetto etico di cui siamo, anzi l'aspetto confessionale di cui sono infarcito le nostre leggi matrimoniali, c'è anche un aspetto realmente di tutela del patrimonio, se tu vai con un'altra persona disperdi il patrimonio. Beh, il principio di fedeltà dovrebbe valere teoricamente anche le unioni civili, visto che addirittura è prevista la comunione legale dei beni delle unioni civili, quindi stiamo parlando di un istituto sovrapponibile a quello del matrimonio. Ma come fa a stare in piedi se non c'è anche l'obbligo di fedeltà questa roba? Ma questa cosa non francamente non la capisco, da tecnico della materia non la capisco. E come fa a stare in piedi? Io dico benissimo, siamo sposati. La prima ragione per cui la gente viene da... è un'offesa al mondo degli omosessuali, questo è un'offesa. Sì, perché dice loro sono talmente dissoluti. O le leggi le facciamo passare, basta, senza tante ipocrisie, ma senza questi correttivi che secondo me sono peggiorativi del problema. Sì. Cioè, è proprio la classica, il classico compromesso all'italiana. Anche sulla stepchild adoption, ripeto, è un altro grande, è una grande confusione. Si confonde l'adozione, la possibilità di adottare i due persone dello stesso sesso, un bambino all'altra parte del mondo, con la possibilità di adottare un bambino che già esiste, che non ha più l'altro genitore, che non ha più nessuno al mondo e che quindi già la legge da 30 anni prevede questo tipo di adozione. O meglio, sì, perché ha detto la possibilità di avere figli, la natura non dà loro la possibilità di fare figli, quindi non li possono avere. Ma vale anche per una persona sterile. Il problema della questione natura contro natura è una verità biologica, che un bambino lo possono fare un uomo e una donna. Ora, non è che ci sia molto da discutere. Che poi non mi pare che questo sia oggetto di discussione, chiaro. È una verità biologica. Voglio dire, due persone dello stesso sesso lo sanno. Non è che, voglio dire, possiamo fare la gara con le coppie eterosessuali. Poi l'amore è l'amore, e questo è un altro discorso. Però è chiaro che due omosessuali che vogliono un figlio dovranno fare i salti mortali. C'è essere l'intreccio di mille situazioni favorevoli, che lui c'è il figlio ma non ha l'altro genitore. Cioè, voglio dire, è chiaro che è una cosa complicatissima per gli omosessuali. Sì, ma la natura bastona la stessa maniera, se vogliamo usare lo stesso termine, chi bastona non favorisce chi non può averli geneticamente figli perché ha un problema di sterilità. Ecco, allora anche queste persone persone non potrebbero adottare, se vale il principio di Alfano che chi la natura non permette di avere figli non può nemmeno adottarli. Poi fermiamoci un istante, perché c'è un tuo collega in linea, vuole dire una cosa, e fra un istante lo sentiamo. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, stiamo analizzando quello che è il maxi emendamento sulla legge delle unioni civili. Sono due punti che ci interessano particolarmente e sintetizzabili nel concetto del secondo natura. Le persone che secondo natura non possono avere i figli non possono nemmeno adottarli, ha detto il ministro Angelino Alfano, ma ha ancora detto che togliendo l'obbligo di fedeltà normalizza comunque qualcosa che era ugualmente sotto natura. Questo naturalmente fa pensare che le persone che fanno un'unione civile, che hanno lo stesso senso, hanno una sorta di libertà, di licenziosità, di scappatella, possono fare quello che vogliono, perché in fondo per loro l'amore e lo stare assieme, fare un progetto di vita, non è sottoposto a un obbligo morale come è sottoposto naturalmente per le persone eterosessuali. E questo è il senso. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, Francesco Di Bartolo di Vicenza. E ascolti, io... Leggo, un avvocato matrimonialista. Sì, faccio parte anche della stessa associazione. Ah, quindi è della banda Gassani, ok. Della banda Gassani, sì. Ci spieghi meglio allora, questa cosa è qua. È un'assurdità l'abolizione dell'obbligo della fedeltà per queste ragioni. Nelle coppie eterosessuali, da una decina d'anni a questa parte, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento dei danni a favore del coniuge che subisce il tradimento, che subisce... Lesioni da corna sarebbero queste cose qua. Sì, esattamente, perché chi subisce il tradimento ha un trauma, uno shock, può avere dei danni sotto l'aspetto psicologico, e la giurisprudenza, con un cammino che non è stato del tutto lineare, però insomma da un po' di anni a questa parte, riconosce il diritto al risarcimento del danno. Togliendo l'obbligo alla fedeltà nella coppia omosessuale, allora si viene a creare qui una situazione per cui, mentre nelle coppie eterosessuali può esserci il diritto al risarcimento del danno, nella coppia omosessuale il partner che subisce il tradimento non potrà chiedere il risarcimento dei danni. Sì, ma la cosa assurda, secondo me, è come se ci fosse una sorta di condanna antropologica del fatto che, perché sei omosessuale comunque, per te il principio di fedeltà non vale, perché tanto naturalmente si sa, sei compulsivo, dissoluto, multiplo, che può anche esserci, può anche starci, ma metterlo come legge, se due persone dello stesso sesso vogliono essersi fedeli tutta la vita, perché non hanno il diritto comunque di poterlo essere. Sergio, buongiorno. Sergio? Sì, lei è avvocato. Anche lei è un avvocato? No, non sono un avvocato, sono un panettiere io. Ah, un panettiere, allora dica come la pensi. Io le dico che questa legge che stai votando questa sera peggiora la situazione, perché prima c'era la indiscrezionalità dei giudici e dei sindaci a sposarli e a affidare i bambini. Con questa legge non possono più legiferare, perché la legge dice il matrimonio non c'è, e l'affidamento a due sessi uguali non si può affidare. Sì. I bambini che esistono già al padre, e quello è il padre o la madre, l'altro non conta niente. Questa peggiora la situazione degli uomini sessuali. Senz'altro, degli uomini sessuali. Mi fate spiegare dall'avvocato chi è lì. Grazie. Certo. Grazie a lei. La mattina, oltre a fare sfilatini e cornetti, fa anche delle belle torte al maraschino, il nostro amico, e naturalmente, mentre le impasta, si fa anche un bicchierino. Stefano Morigi, buongiorno, filosofo della scienza. Buongiorno Gianluca. Senti, mi richiarisci nuovamente questo principio del secondo natura, perché... Che secondo natura le persone che non possono avere figli non possono adottarli, significa che nemmeno chi è sterile, questa è la mia idea. Seconda cosa, il principio della fedeltà può essere annoverato nelle categorie che la natura sancisce. Se sei fedele sei secondo natura, se sei infedele è contro natura. Cosa dice la natura, ammesso che possa dire qualcosa? Partiamo dall'ultimo dei punti. La monogamia in natura è un'eccezione. E questo chi studia lo sa. Parliamo della specie umana. La specie umana etero, vogliamo dire così, è dimostrato che il 13% perlomeno dei secondogeniti chiama papà un signore che non è suo papà. Il Quindi suo vorrei padre. Sapere di che cosa stiamo parlando. Naturale, ovviamente. di che cosa stiamo parlando. Questa indicazione della legge che toglie il vincolo di fedeltà alle coppie omosessuali è il riconoscimento istituzionale, mi verrebbe da dire, di un pregiudizio, cioè che gli omosessuali non sarebbero capaci altro che di un amore mercenario, di un amore così occasionale, e dunque incapaci di quella famiglia che invece dovrebbe replicare il presepe, non ho capito se con l'asinello, il bue oppure senza. Sì, poi non c'è pregiudizio, scusa, su cui si fanno con il grande rispetto, non esiste famiglia più lontana dalla natura che la sacra famiglia. Tra l'altro, a parte quello, un eterologa, un padre putativo, mi sembra una madre vergine, non vedo dove sia la naturalità. Sì, lei sedicenne, lui settantenne, se vogliamo anche aggiungere, ma a parte questi discorsi, c'è un pregiudizio di fondo che è ideologico, non c'è nulla di scientifico, così come quando si usa, lo ricordavi tu, il termine natura come un manganello dell'ideologia e non un'evidenza scientifica. Chiunque parli di contronatura o di secondo natura, usando questa espressione in maniera culturale, ciò che è naturale è l'evidenza delle leggi scientifiche. L'omosessualità si dà in natura, piaccia o non piaccia. Qualsiasi cosa che venga detto o definito contro natura è una stupidaggine detta ideologicamente, ed è triste che diventi legge per nome di partiti che per ragioni loro, populistiche, convinzioni o convenzioni, fanno arrivare alla formalizzazione di una norma un pregiudizio fondato esclusivamente sull'ignoranza. È un'altra delle tanti esempi della maleducazione scientifica di cui il nostro paese purtroppo è vittima. Purtroppo alla base c'è tutta una malversazione rispetto a un termine. Dire secondo natura è come se si impugnasse una realtà scientifica, e scientifica non è. Quindi, come dice giustamente il filosofo della scienza Stefano Moriggi, si impugna un pregiudizio. È una legge che è stata fatta basandosi su un pregiudizio. Cristiano, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Io volevo semplicemente dire che non credo che la fiducia... La fedeltà, e quindi, ma la fedeltà, ma di conseguenza quindi la fiducia nell'altra persona, perché quella che io vado a rompere con l'antifedeltà, vado a rompere un patto di fiducia importante con un'altra persona. Non è una prerogativa delle coppie eterosessuali, è una prerogativa della persona che decide o no di essere fedele, tutto qua. Quindi dà ragione al fatto che in effetti si potranno anche evitare, sull'adozione poi ognuno si regola come vuole, ma sancire che la fedeltà è il punto di discrimine fra la sacra coppia benedetta a Dio e la coppia profana e dannata mi sembra un po' pesante, anche perché onestamente Gianetto Regassani, hai una percentuale possibile di quanto sia la fedeltà assoluta e accertata nei patti matrimoniali italiani? Ma innanzitutto io sottoscrivo quello che hanno detto gli ultimi radioascoltatori, anche soprattutto quello che dice il collega Di Bartolo, cioè anche questa discriminazione sulla risarcibilità del danno da infedeltà che spesso procura dei traumi enormi. Comunque io da avvocato matrimonialista ne vedo di tutti i colori, francamente la fedeltà nelle coppie oggi diventa l'eccezione. È assolutamente vero che il 13% dei secondi figli chiama papà un papà putativo perché il padre biologico è un altro, quindi la fedeltà è una scelta al di là della imposizione. Il fatto di però legiferare su una discriminazione, quasi a dire gli omosessuali facciano quello che vogliono, noi vi diamo una legge, vi diamo un contentino, così state tranquilli, non è da paese civile, insomma, sia sotto il profilo culturale ma anche sotto il profilo giuridico. Costantino, buongiorno. Non fa ridere che scrivono ignorante sarà Moriggi e contro natura l'unione tra... Vabbè, quante minchiate dite? Non stiamo dicendo minchiate, portiamo principi inconfutabili quando diciamo che non esiste il secondo natura in questo senso. Poi possono esistere delle convinzioni o delle convenzioni che accettiamo, sulle quali discutiamo, ma non si può imporre un principio assoluto, impugnare un principio assoluto quando assoluto non è. Costantino, buongiorno. Pronto, buongiorno Nicoletti. Allora, io ieri quando ho sentito questa notizia dell'obbligo di fedeltà, all'inizio ho riso anch'io, perché mi sembrava davvero divertente come tutto quello che sta succedendo sulle unioni civili, e ho pensato che alla fine andava anche bene, da gay dichiarato, convinto, convivente, dico chi se ne frega, cioè mi sta anche bene che venga sancito per legge che possiamo fare, che ognuno di noi può fare quello che vuole. In realtà credo che, come al solito, il diavolo si nasconda nei dettagli, e sicuramente questa norma voluta nel maxi emendamento da NCD ha una finalità molto più subdola e perversa, cioè vuole semplicemente precostituire un alibi per il legislatore futuro e anche per i giudici, per dire che i gay non possono avere dei figli, perché sono promiscui, perché commettono atti impuri e in quanto tali, perché la legge sancisce che non sono fedeli, non possono avere figli. Costante, le posso dire una cosa? Ha detto la cosa più lucida e illuminante che non era venuta in mente veramente all'inizio. Ha ragione lei. Avvocato Gassani, cosa ne dici di questa cosa? Già è una coppia comunque in cui si consuma il peccato, si consuma l'irregolarità. Vuoi dare figli a questa coppia qua che nemmeno ha l'obbligo di essere fedele? Sì, infatti, il problema è proprio sottoculturale, il fatto di dire voi siete comunque dei cittadini di serie B, avete un problema, siete contro natura, per cui siccome già presupponiamo che siate delle coppie abbastanza allegre, è inutile che stabiliamo l'obbligo della fedeltà, tanto non sarete fedeli. Io credo che questa sia una cosa gravissima fatta da tutti, cioè questo maxi emendamento è il frutto di un accordo che è allucinante. Io non faccio politica, non ho avuto mai tessere, quindi posso ragionare in maniera libera. Tutti sono responsabili di questo maxi emendamento. Passerà una legge che io saluto con favore comunque, ma mi lascio la mano in bocca perché resta ancora la pregiudiziale nei confronti del mondo omosessuale. Questo è un messaggio che diamo al mondo gravissimo. Fabio, buongiorno. Aspetti, Fabio, la chiamo fra un istante. Costantino, deve replicare qualcosa a quello che diceva l'avvocato. Costantino è caduto. Fabio, buongiorno. Fabio, resti un attimo in attesa perché dobbiamo dare la linea. Un minuto e poi riparlo. Ma è meno, pochi secondi e riparlo con lei. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Leggo qualche sms, dice, per Nicoletti, probabile che abbiate capito che la mancata norma sulla sanzione dell'infedeltà nel vostro matrimonio gay, vostro, mio, ma, già ce n'è uno, ma basta, ma avanza, è un declassamento del rapporto, probabilmente ci siete vicini, l'avete capito, comunque vedete che l'occhiolino è stato fatto, è umanità di serie B e ha comunque una sorta di contentino per in qualche maniera farli contenti, però rimangono sempre nel recinto dei peccatori. Poi vediamo, per favore, non diciamo idiozie, in natura non esiste omosessualità, un maschio sottomette un altro maschio non per senso sessuale, per indossare la propria superiorità. Tecnicamente da questo punto di vista non cambia molto, perché un rapporto fra due persone c'è sempre comunque un desiderio di sottomettere un altro a se stessi, in maniera amorosa, in maniera affettuosa, in maniera quotidiana, comunque sì, quando leghiamo una persona a sé comunque facciamo un patto e lui deve sottomettersi a un patto. Questo, ci sono animali, quando perdono il compagno non si concedono più ad altri maschi. Nell'uomo omosessuale è una malattia psichica dimostrata dai migliori dottori del mondo, quindi curabile. Siamo allo schifo peggiore che l'umanità potesse raggiungere. L'obbligo di essere ricchioni. Luca da Giussano. Ma non so dove, non vedo serenamente dove ci sia questo obbligo. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io premetto che sono d'accordo che due persone che si vogliono bene si devono sposare, anzi. A questo punto è meglio che si sposino così. Se ci credono volentieri, ma scherzi, se ci credono, anzi, bene, si sposino in chiesa, si sposino con i sacramenti. Hanno avuto la bicicletta che pedalino, no? Sì, vabbè. Anzi, io sono più in teoria offeso delle persone che appunto vogliono convivere e non si vogliono. Cioè, uno quando fa un'assicurazione si legge il contratto, quando si sposa capisce quali sono gli obblighi, glieli leggono, vengono letti anche durante l'atto del matrimonio gli obblighi, quindi. Giusto, lo farò una battuta, ma a questo punto forse è meglio che passi a legge così. Perché se non c'è l'obbligo, io sono sposato eterosessuale, se non c'è l'obbligo di fedeltà, allora a me conviene divorziare, di fare di nuovo l'unione e non avere l'obbligo di fedeltà. Così evito. Ma deve sposarsi un altro uomo, però. Cioè, questo è l'unico dettaglio, non so se per lei è trascurabile, è sposarsi con un altro uomo, che l'unione civile con l'altro uomo. Se no è troppo facile. Ci divorziavamo tutti, ci risposavamo coi patti civili e poi ognuno chi si è visto si è visto. Le volevo far capire, da un certo punto di vista Io sono d'accordo che non ci debba essere. L'obbligo di fedeltà è una cosa, è un patto interiore fra due persone. Però, siccome il matrimonio ha una ricaduta su aspetti civili, patrimoniali, via dicendo, la fedeltà è anche la tutela comunque di questo patrimonio. Perché se io impazzisco per la Bielorussa, è chiaro che mi vendo subito casa e se lei mi dice fallo, è logico da questo punto di vista. Che poi l'aspetto morale vada anche tutelato, abbia dei danni, è un'altra vicenda. Ma qui è fortemente discriminatorio. Se è definito che una parte dell'umanità non ha diritto comunque ad avere sancita la fedeltà perché ha un comportamento comunque irregolare, questo è il senso. Gianetto Regassani, su questo aspetto della fedeltà vogliamo ribadire perché è importante nel matrimonio da un punto di vista giuridico che ci sia rispetto dell'obbligo di fedeltà e perché naturalmente la prima ragione per cui la gente va dall'avvocato quando vuole separarsi è dimostrare un'infedeltà. Ma in effetti l'obbligo della fedeltà è un caposaldo del diritto di famiglia italiano, l'articolo 143 lo sancisce in maniera chiara, tanto è vero che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il principio della risarcibilità del danno morale, esistenziale, insomma di tutti i tipi di danni da infedeltà, cioè essere traditi in un percorso di vita, in un investimento di vita così importante comunque costituisce un illecito civile. Ora, stabilire che l'infedeltà riguarda soltanto quindi un obbligo la fedeltà riguarda un obbligo soltanto degli eterosessuali, nella logica di un disegno di legge che in effetti trasforma le unioni civili in un vero e proprio matrimonio, perché noi partiamo da questo presupposto, premesso che le unioni civili sono un matrimonio a tutti gli effetti, ed è inutile che ci vengano a dire sciocchezze perché la struttura delle unioni civili è identica a quella dei matrimoni. A questo punto, se abbiamo stabilito due cose quasi sovrapponibili, non si capisce per quale motivo un caposaldo dell'unione di due persone debba essere stralciato soltanto per dimostrare che in effetti, non essendoci la fedeltà, non si può parlare di matrimonio. Poi mi ribadisci un concetto, Gianetto, che ancora non mi è chiaro fino in fondo. Lo stralcio delle adozioni e dell'obbligo di fedeltà sta facendo ballare in piazza e stappare champagne a tutti quelli che pensavano questo fosse un attentato antropologico. Vogliamo rivedere il fatto che comunque un matrimonio a tutti gli effetti, tolto questo aspetto, non c'è l'obbligo, pazienza, chi vuole essere fedele sarà fedele e non cambia nulla, ma è un matrimonio a tutti gli effetti, non prendiamoci in giro, è comunque un matrimonio. Ecco, per come viene celebrato, per quegli obblighi che sussistono, per i diritti successori, per l'obbligo alla contribuzione economica della famiglia, addirittura alla possibilità di usare un solo cognome e a tutte le leggi che regolano poi lo scioglimento di un vincolo. Quindi è un matrimonio e chiaramente nel nostro paese, siamo in Italia, attenzione, parlare di matrimonio degli omosessuali oggi nel 2016 è ancora troppo presto evidentemente e quindi abbiamo cercato di scegliere un altro nome. Però poi in questo grande compromesso, in questo maxi emendamento fatto di polemiche eccetera eccetera, si è pensato bene che pur di far passare questa legge si è sacrificata un articolo della Costituzione, articolo 3, l'eguaglianza di tutti i cittadini, davanti a un istituto identico. Non si capisce per quale motivo ci siano i matrimoni di serie A e i matrimoni di serie B, che ripeto e lo dico sotto la mia responsabilità, le unioni civili non sono altro che un matrimonio. E io saluto con favore questo impianto normativo. Non mi piace però il compromesso all'italiana, è sempre stato così, anche quando fu varata la legge sul divorzio fu fatto un grande compromesso, 5 anni di attesa, poi siamo passati a 3, finalmente è stato introdotto il divorzio breve, ma quanti anni di sofferenza, che sentieri tortuosi per arrivare a un minimo di civiltà. Questo è il discorso. Allora, noi dobbiamo stabilire una cosa: se siamo un paese normale dobbiamo capire che l'omosessualità è una realtà, ci sono milioni di persone omosessuali nel nostro paese, tantissime, molte di più di quanto ne possiamo immaginare, bisogna tutelare queste persone, punto, ci piaccia o no, e mettere il discorso sul piano del natura o contro natura è veramente da paese del terzo mondo, perché io non credo che in nessun altro paese d'Europa un politico potrebbe esprimere un concetto di questo tipo. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Veloce, che stiamo chiudendo, Esprima velocemente. Sì, io volevo soltanto dire una cosa. Penso che quando le persone dicano secondo natura intendono che quello che accade normalmente, cioè un uomo e una donna uniti, possono procreare. L'umanità va avanti. Se fosse un mondo di persone dello stesso sesso che vogliono unirsi, quindi di omosessuali, l'umanità finirebbe. Credo che le persone. Ma chi è che si auspica questo? Io penso nessuno si auspichi questo, che finisca il mondo. Assolutamente, ma ringraziando Dio. Però dire che parlare di secondo natura sia quasi un crimine, penso che... No, è sbagliato in termini assoluti. Qua non è messo in dubbio il fatto che l'umanità va avanti se uomini e donne partoriscono. Questo è un dato di fatto. Si tratta, siccome c'è una fetta di umanità che comunque alle donne piacciono le donne, agli uomini piacciono le donne e vogliono avere il diritto di stare insieme e avere... Assolutamente, allora... però non chiamiamo le cose diverse con lo stesso nome. Però un matrimonio... Guerra delle parole. Il concetto, non ho capito il suo concetto, cosa vuol dire? La natura prevede anche quello, che ci siano persone che si amino fra loro. Ma ben venga, ma e allora qual è il problema? Il problema è questo, è che non bisogna chiamare delle cose diverse con lo stesso nome. Infatti, si chiama matrimonio. Ma non prevede questo il matrimonio. La legge a tutti gli effetti è un matrimonio, questo voglio dirle, non prevederà quello che vuole, però a tutti gli effetti è un matrimonio. È un'unione di due persone. Perché se poi vogliamo parlare dello stampo cattolico entriamo in un meandro che io lascerei, no? No, ma figuriamoci, ho nessun interesse. Comunque, vabbè, Claudia, dice quello che dicono tutti, ma non è un principio di saggezza. Noi vogliamo riflettere sul fatto che le parole hanno un peso. Dire secondo natura, in questo senso, è una totale idiozia. Tutto qua. Alla prossima!